Benvenuti da parte di Nilo alla puntata numero 0 della rubrica Alla radice del problema, questo programma che si spera andrà in onda sull'...